volevo continuare sulla via delle arti occidentali e di soffermarmi sui processi di evoluzione territoriale in quest'area fra l'unità del 200 e 300, prendendo come esempio il caso Sabaco. Nel corso del 200, dalla Val d'Aosta al Vù, dalla Tarantesa al Vallese, da Sumeria a Torino, vi si impone un nuovo ordinamento istituzionale, il Principato, in questo caso Sabaco, che vuol far valere la propria supremazia su un territorio coerente e sulla totalità dei suoi abitanti. Gli statuti promulgati attorno al 1266 da Conte Pietro II riguardano tutti gli uomini, nobili e non, chierici e religiosi, rustici ed agricole, residenti in tutto il Comitato Sabaco. Sotto l'aspetto normativo, il Conte e il suo entourage intendono quindi considerare i domini dinastici come un insieme in cui tutti riconoscono la funzione del potere e tutti la condizione, nobile e non. Quali sono gli strumenti e i simboli di tale orientamento? Per quali vie questa area di struttura dell'arco occidentale fra il Mon Genisio, il Levante e il Gran San Bernardo si trasforma da zona di incontro dei modelli istituzionali sorti dalla dissoluzione degli ordinamenti pubblici e matrici carolingia a terra di indiscussa dominazione principesca? Qual è l'impatto di questa trasformazione sull'organizzazione del territorio? Ricordiamoci che sino ad allora essa, dimostrata parlamentare finora, si era fondata su un'incerta concorrenza e un'instabile convivenza tra principati vescovili, si vuole di Stato tedesco, a Osanna, Simone, a Montiero, principati territoriali di tipo francese, come quelli degli Argonne e il futuro del Finato, dei Savoia fra Moriana, Oste e Belle, dei conti del Genovese sulle rive delle mani, no? E infine, innumerevoli signori rurali di Bagno, solidamente intrecciati in area subalpina con dominazioni comunali. Lo studio di questa mutazione precedentesca è reso un po' più interessante da una caratteristica propria del Principato Sabaudo, che è una dominazione interregionale, le cui ambizioni sono globalmente attive, con pari attenzione a mente teoriche, che si vedrà nel 400 reali, per entrambi i versanti. L'espansione sabauda favorisce dunque la circolazione di modelli istituzionali e il confronto fra organizzazione del territorio richiamandosi a forme culturali in partenza sette leggenti, cultura notarile e usanze cancelleresche, aree di diritto romano o regioni di diritto consuetudinario come Vaud, la Val d'Aosta, centralità degli insediamenti urbani in Piemonte e forza di potere civile rurale, per esempio in Vaud. A questa situazione di frammentarietà culturale e di intensa forza delle singole identità regionali, siano esse aristocratiche o comunitarie, i Savoia rispondono, da un lato sforzandosi di sovrapporsi agli ambiti politici preesistenti, a cui sono così lasciati ampi margini di autonomia, soprattutto la capacità di mantenere, come ricordava il professor Camaldano, poteri propri di comunità rurali e urbani già precedenti, e dato che anche Savoia tentano di modificare la fisionomia stessa del territorio che controlla. Tappa fondamentale nell'impianto dell'egemonia sovraregionale sabauda, il 200 è soprattutto un momento di coordinamento, convivenza e complementarietà tra poteri locali e autorità comunitarie. Ma vi si trovano anche le prime avvisaglie di una nuova struttura gerarchica e codificata della supremazia politica. Questo cambiamento su più piani è ben testimoniato dalla metamorfosi del corpus documentale, affiancandosi alle fonti di ambito religioso, capitali vescovili, capitali monastici, predominanti nel XII secolo, e che rendono anche difficile ricostituire i prodromi della ricostruzione principesca all'inizio del 200, gli atti di matrice comunitaria si avviano nel 200 a occupare proscenio documentale e a rivelare la pluralità delle strategie di dominazione sabauda. Le numerose ricognizioni stradali denotano il quotidiano ricorso dei conti all'uso di strumenti feudo-vassallatici come forme di raccordo politico. Esemplare è il caso del Vaud, dove Pietro, non ancora conte di Savoia, riesce a radicarsi attorno alla metà del 200, inserendo fra 1244 e 1250 la maggioranza dell'aristocrazia regionale nella propria clientela vassallata. A Affiorano inoltre più le fonti fiscali amministrative, i conti di Castellani. Da essi si può indurre, vorrei schematizzare un po', un triplice mutamento politico-territoriale: nascita dell'amministrazione principesca, trasformazione del tessuto insediativo locale, rinnovamento delle gerarchie sociali regionali. Non vedo più infatti che l'amministrazione sabauda nasca come amministrazione del e sul territorio. Si comincia con i singoli Castellani, poi sì, viene creato una sorta di coordinamento regionale, validato, non so se è validato, come sabauda, infine viene definito un embrione di apparato centrale dell'amministrazione. In secondo luogo, l'inquadramento politico offerto dalla rete del Castellani muta a volte radicalmente il paesaggio insediativo, come attesta ad esempio la politica di fondazione di Ville Franchi di Villanova, fatta dai Savoia e in Piemonte dai loro parenti di Acari. Anche la funzione dei Castelli può venire modificata. Da nucleo di aggregazione politica, simbolo e sintomo della forza delle signorie rurali di Parma, essi possono trasformarsi in centri economici, amministrativi o militari, la cui autonomia locale, sempre più spesso, può essere controbilanciata da stretti legami con i centri politici principali. Infine, in terzo luogo, la nascita degli apparati funzionariali accresce, perlomeno virtualmente, le possibilità di intervento comitato sulla composizione delle vite regionali e locali, fornendo così a Savoia uno strumento di controllo sociale e di ingerenza politica che sarà sistematicamente utilizzato nel corso dei secoli successivi, secondo metà 300 e 400, con altri risultati. Strategie feudali, militari e giuridico-amministrative, queste ultime fornite in Savoia in una prima parziale codificazione vicentesca, gli statuti di Pietro II, vero testo fondatore dell'attività legislativa del principe, si trovano dunque alla base dell'inserimento delle terre alpine in organismi politici interregionali. A partire dalla metà del 200 si può davvero cominciare a parlare di una competizione fra principati omologhi, Savoia, Delfinato, Monferrato, eccetera. Tuttavia, la loro fisionomia è ancora incerta. Alcuni tratti tipici dei principati medievali sono ancora assenti, è stato molto chiaro per il caso di Monferrato, nell'area alpina occidentale l'integrazione e il determinato sloccio nelle strutture politiche dei principati avverrà soltanto nel corso del 300, con gli sviluppi interregionali di nessi ferrovassallatici, con la stabilizzazione delle frontiere geografiche interne e esterne, con l'assestamento di organi amministrativi centrali e locali. Vorrei soffermarmi adesso su questi ultimi due punti. La stabilizzazione dei confini fra la Savoia e i suoi più potenti vicini avviene nella prima metà del 300, fra 1310, matrimonio trattato con gli Asburgo, e 1355, accordo di Parigi, con un Delfinato mai passato sotto controllo francese. A ovest e a nord si consolidano così vere e proprie aree di frontiera tra i domini francesi e quelli asburgici, successivamente fritici per Erna, soprattutto. Sul versante cisalpino, gli sviluppi sono analoghi, forse mediati dalla presenza del principato di Acaia, le cui terre ritorneranno al ramo principale soltanto nel 1418. A partire dalla metà del 300, i progetti di espansione sovrani avranno come primo obiettivo signorie inserite nell'area di influenza dei conti. Si esprime così una chiara volontà di definizione della struttura politica interna del principato, volta a rendere coerente e compatto il profilo geografico. La via maestra per l'ampliamento del raggio d'azione comunitaria passerà attraverso una progressiva aggregazione, talvolta raggiunte anche grazie a rapporti prettamente feudali, di tali particolarismi signorili. I primi a essere insediati, con alterno successo, non sempre essere inseriti nella contesta, sono quelli che sono gli organismi episcopali, da Belley alla Downtown, da Losanna a Ostessi. Seguiranno le signorie di matrice laica, dal paese di Ucex alla frontiera di Ginevra, dal Fossigny del finale vera e propria enclave nei territori sabaudi, alle baronie di Bourgeois di Quantità, verso Lione. Questi sforzi di razionalizzazione politico-geografica influivano con decisione sulla fisionomia della rete distrettuale e sulla sua stabilizzazione. A sua volta, il rafforzamento delle strutture amministrative del territorio, che riduceva l'importanza dei diritti di bassa e media giustizia ancora più inutile signorie e minori, andava di pari passo con la nascita di un vero e proprio apparato centrale funzionale. Le prime menzioni del tesoriere comunale risalgono nel 1300, nel 1329 viene istituito il consiglio residente a Chambéry con funzioni esclusive di corte giudiziaria. Dal 1330 almeno è attivo un cancelliere affiancato dai suoi segretari. Infine, sempre a Chambéry, nella seconda metà del secolo si è creata una corte dei conti, massima istanza amministrativa e controllo. Sviluppo degli organi centrali e il robustimento dell'amministrazione locale modificarono precisamente il tessuto sociale consigliativo del versante transalpino del Principato. Se in un'area che bisogna ricordarlo con forza non fu mai egemonizzata da centri urbani con funzioni di provenienza regionale, Losanna e Ginevra, Simone e Roma non furono mai sottomesse a diretto controllo sovrano, la costituzione di Castellania e Valida aveva coinciso con la fondazione di nuovi centri urbani e con la creazione di capoluoghi regionali, che sono le sedi dei partiti, e col tempo l'istituzione di un apparato centralizzato portò alla nascita di una vera capitale, Chambéry, che sarà seguita in gioco a Torino nel corso del 400, che viene ormai considerata sede fissa dell'amministrazione principesca, non del principe. Il consolidamento amministrativo al centro e sul territorio portava con sé un'ulteriore trasformazione degli equilibri sociali e politici sovrani. La scelta degli ufficiali dava la possibilità al principe di modificare anche drasticamente, come accade nel VU, la composizione delle elite regionali. Per converso, vista dalla parte degli amministratori, la carriera funzionariale poteva essere sia strumento per mantenere una superiorità sociale regionale, come nel caso del Chardon d'Aosta, sia tecnica essenziale per accedere agli stati dominanti di ciascun arrivato, radicandosi in un funzionario come Castellania, sconvolgendo. Sposarsi all'interno della Castellania e si perde terre. Questo forte ricambio delle elite incide su due aspetti complementari del profilo territoriale sovrano. A livello locale facilita il rinnovamento delle basi signorili del potere. Tra 3 e 400 si assiste infatti a un sempre più frequente ricambio di possessi e di possessori, che conduce a profondi cambiamenti nella fisionomia stessa del gruppo signorile. Nel contempo, guardando all'insieme del Principato, si può notare quanto la crescita amministrativa acceleri la circolazione dei modelli istituzionali e agevoli la nascita di una politica unità da raggiungere tendenzialmente interregionale. Nei singoli territori, compresi nella contea di Savoia, vige dunque un'articolazione dualistica, si potrebbe dire, del potere e dello spazio. Domini e ufficiali, castellanini e signorini, principi e corpi locali. Comunque sia, preminenza politica e radicamento territoriale continua a essere strettamente correlati fino al pieno 400. Il controllo dei beni signorini rimane il requisito essenziale di ogni superiorità pubblica. Il Principato sovrano medievale non è costituito da un centro in grado di controllare e di subordinare una miriade di periferie. Esso è il risultato, instabile e mutevole, degli equilibri via via raggiunti nei rapporti di forza tra più centri amministrativi, politici, partigiani e molteplici territori, ognuno con una propria identità regionale, a volte fortificata come nel caso dell'udienza valdostana o delle assemblee, del Parlamento, del VU, esempi massimi dell'indipendenza delle comunità locali di Valle rispetto all'autorità principesca, capaci di esprimere un'elite che opera simultaneamente in loco e in tutta la contea. Ciò non toglie che tra i 2 e i 300 i territori sardi si siano trasformati davvero da una somma di domini familiari a un principato sovrano regionale. Questo passaggio si è concluso grazie alle capacità del principe del suo notario di aggregare e di coordinare all'interno di un organismo pubblico sempre meglio definito una pluralità di particolarismi locali. Per raggiungere e legittimare questo risultato, il principe ha potuto contare su tecniche e strumenti assai diversificati, possono essere giuridici, legati con l'impero, diritto feudale, corpus normativo, militare, formazione dell'esercito, tornei, ordini cavallereschi della metà del 300, o amministrativi, apparati giudiziari, finanziari, di controllo. Grazie a ciò, in Savoia come altrove, il principe è riuscito a porsi, se non come unico controllore della violenza legittima, almeno come massimo detentore dell'autorità pubblica, dispensatore di favore e promozioni e indispensabile arbitro nelle controversie interne alla società politica. Egli poteva agire come segno feudale, contribuendo così a trasformare, talvolta in modo davvero drastico, la geografia signorile interna alle sue dominazioni. Poteva intervenire assieme ai suoi consigli in qualità di dominus territoriale per arbitrare e sedare dispute private. Poteva infine punire, in quanto suprema autorità regionale, comportamenti considerati lesivi della pace. Nel corso dei secoli, l'uso di tali strumenti militari, finanziari, feudali o amministrativi modificò radicalmente l'organizzazione di tutti i territori sabati. Il consolidamento del principato portò con sé la nascita di una nuova società politica. Eppure, ancora nel 1430, in un momento dunque di grande forza del potere principesco, Amedeo VIII fu obbligato a ricordare, nel provento dei suoi decreti a Sabaudia e Lucania, che ne erano escluse le buone e saudabile sconsuetudines nostrorum ducatus Augusti et patre Baudium, nec non razionabile scapitula nostrarum Italia per le mons e provincia. Si accettava così che in una buona metà delle terre ducali gli stati principesi non avessero alcun vero. Le fondamenta del potere sabato continuavano dunque a reggersi, non sull'opposizione ma sulla convivenza, sempre più spesso mediata dal mondo amministrativo, tra pubblici e forze territoriali. Grazie a Castelnuovo che mi si è dato, mi pare, la ricostruzione dello svolgimento di uno dei pochi, diciamo, first and first, si può dire, che possiamo vantare in area italiana accanto ad altre forme di sviluppo che in effetti ha proposto dei tipi e delle figure di discorso che non sono inconsuete nella letteratura lingua tedesca sulle volontà principali, che ha aperto poi anche le mie. In Savoyen ist es zwischen 1200 und 1300 tatsächlich zur Ausbildung eines Landes, eines weltlichen Fürstentums gekommen, ausgehend von der Situation der dagegen Zersplitterung. Es sind vor allem drei Elemente herausgearbeitet worden, die dazu beigetragen haben, dass dieses Land entsteht und sich dann auch sehr stark konsolidiert. Einmal der Aufbau einer Verwaltung durch den Landesfürsten, eine Verwaltung, die sehr stark differenziert wird und die sehr effizient wird. Dann eine gezielte Siedlungspolitik bzw. die Anlage von Burgen und von entsprechend immer neuen Siedlungen. Und schließlich, dass der Graf erfolgreich versucht, eben als Graf in allen möglichen Angelegenheiten seine oberste Autorität in Anspruch zu nehmen. Dabei ist ein Element wichtig, worauf Schneider kann auch sagen, nämlich der Schutz von der Kaufleuten oder von der Bürger. Am Ende des 13. Jahrhunderts und Beginn des 14. Jahrhunderts präsentiert sich dann Savoyen als ein konsolidiertes Land, Staatsraum wohl vermeiden in dem Zusammenhang, mit klaren Grenzen etwa in allen Richtungen. Der weitere Ausbau betrifft vor allem die Verwaltung. Die Verwaltung ist das Element zur Konsolidierung, wobei aber diese Verwaltung nicht zu einer Vereinheitlichung im strengen Sinn führt, sondern die Verwaltung orientiert sich immer noch an älteren, gewachsenen Einheiten. Der historisch begründete Partikularismus auf das Land der Savoia ist nicht einheitlich entstanden, sondern nur auf älteren Einheiten. Dieser historisch begründete Partikularismus wird aber durch eine sehr erfolgreiche Koordination überwunden. Eine Einheitlichkeit ist aber auch im 15. Jahrhundert noch nicht hergestellt, sondern immer noch beruft man sich auf die Rechte in diesem oder jenem oder in anderen Bereichen. Aus dem wächst das Ganze dann zusammen. Ja.